Così prezioso poter adorare il Signore, quindi grazie ragazzi perché ci aiutate sempre a farlo con eccellenza, con sacrificio. In particolar modo stamattina volevo anche ringraziare Melissa, perché ultimamente stiamo cantando un brano che sicuramente presto diventerà uno dei miei preferiti, si chiama Ch'io io in cielo, e c'è una frase che viene ripetuta più volte, che è il mio bene stare con te. E praticamente è un canto basato sul Salmo 73. E io ringrazio Melissa in particolar modo per questa ispirazione, ringrazio Fabio per il lavoro che fanno e che mi aiutano, ci aiutano tutti, però a me, io proprio lo metto sul mio, mi aiutano a esprimere i miei sentimenti, le mie emozioni, i miei pensieri al Signore con parole che io non troverei mai, perché non sono molto poeta, e quindi ringrazio per questi doni nel nostro mezzo, ringraziamo il Signore che ci aiutano a far questo, perché è vero, non c'è bene più prezioso, ve l'ho detto più volte, ve lo ripeto, è uno dei miei salmi preferiti, è il mio verso, se c'è un verso che io ripeto a memoria più spesso nella mia vita, è proprio dal Salmo 73, ed è proprio vero che non c'è bene più grande se non quello di stare unito a Dio. Il bene più grande, la cosa più preziosa, ma anche fondamentale per noi figli di Dio, è la nostra unione con Cristo Gesù. Siete d'accordo? State più concentrati alla pioggia che... No, tanto la pioggia è vita. Mi sto distraendo io. Non c'è bene più prezioso che non quello della nostra unione con Cristo Gesù. Seguitemi e vedete se siete d'accordo con me. Quando noi abbiamo riposto la nostra fiducia in Cristo Gesù, quando noi abbiamo abbracciato, accettato Cristo Gesù, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creduto nel più profondo nel nostro cuore che il Figlio di Dio è venuto su questa terra. Ha vissuto perfettamente, senza peccato. Poi è morto per il mio e per il tuo peccato ed è risorto in salvezza. Quando io ho creduto questo, quando io ho abbracciato questo nel più profondo del mio cuore, questa fede ha acceso qualcosa, ha iniziato qualcosa, mi ha fatto nascere di nuovo. E questa nuova nascita ha prodotto una fede ancora più grande in me. E quindi la vita che io adesso vivo, la vita che adesso io vivo, non la vivo più per me stesso, ma la vivo per fede in Cristo Gesù. Perciò dunque non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questo è quello che facciamo al battesimo. Ne abbiamo vissuti alcuni il mese scorso. Quando scendiamo nelle acque, la nostra proclamazione di fede che noi moriamo con Cristo e risuscitiamo in Lui. La nostra vita, questo è un mistero glorioso, un mistero fantastico. Fratelli e sorelle, amici, amici, qui e a casa. È una cosa fondamentale, preziosa, ricca. La più importante per noi, il fatto che noi, per fede, quando lo abbracciamo, quando accettiamo Lui, diventiamo uno con Lui. E spenderemo un'eternità a capire che cosa significa bene bene questa cosa. È il mistero più grande, e non solo che noi siamo in Lui, ma che Lui viene a dimorare in noi. E per questo noi diventiamo corpo. Mi seguite? Io a malapena ho seguito me stesso. Ma è così. È un mistero, è una cosa gloriosa il fatto che noi siamo in Cristo e Lui è in noi e noi siamo uniti. Lo vivi questo ogni giorno? Lo vivi questo oggi? L'hai vissuto questo questa mattina? In questo momento realizzi il fatto che sei uno con Cristo. Cristo Gesù è in te e tu sei in Lui. È una cosa gloriosa e fantastica. Il Signore Gesù ha insegnato questo Il Signore Gesù ha insegnato questo, e proprio questi versi vorrei leggere insieme, proprio per, ecco, capirlo un pochino meglio, questa cosa così fondamentale, così importante per il nostro cammino, di gloria in gloria, di vittoria in vittoria. Questo è fondamentale. Se non comprendiamo questo, se non abbracciamo questo pienamente, non abbracciamo interamente quello che siamo in Cristo Gesù. Per questo il Signore lo ha insegnato. E lo ha insegnato così tanto meglio di chiunque altro. E l'ha insegnato come lui sa fare, con un'immagine, con una metafora bellissima. Li conosciamo benissimo questi versetti, però rileggiamoli questa mattina. E posso chiedervi di fare una cosa. Leggiamoli, ascoltateli. Ma non come se io ve li stessi leggendo, ma ascoltiamoli per noi, come se Gesù è qui questa mattina e dice queste parole non ai discepoli 2000 anni fa, anche se lo ha fatto, ma questa mattina a me e a te. Perché Gesù è qui questa mattina. Gesù questa mattina è in me, è in te, è in noi e noi siamo in Lui. E Lui questa mattina ti dice questo. E se hai bisogno di chiudere gli occhi, chiudili pure. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimanere nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se mi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose. Affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Grazie Gesù. Grazie Gesù per queste parole. E ci vorrebbero almeno 5 messaggi, solo per i primi 2 versetti. Vero? Però iniziamo, vediamo come dove arriviamo. Questa mattina avevo per voi, già parlo al passato, avevo per voi 3 punti. E già ho comunicato in regia a Davide che forse riusciremo solo a farne 2, non importa, magari ci saranno altri messaggi che continueremo in questi versi, però guardiamo a quello che significa essere uno in Cristo. E Gesù inizia col dire, io sono la vera vite. Ora, ai discepoli, quando lo ha detto effettivamente 2 anni fa, sarà suonato un po' più familiare che a noi, perché erano in una cultura contadina, no? La vite la vedevano magari ogni giorno, magari ci lavoravano perché ce l'avevano o un pezzettino in campagna o dietro casa, quindi la vivevano molto di più. Però immagino che tutti quanti noi l'abbiamo vista almeno una volta nella nostra vita, la vite, giusto? Il tralcio, sappiamo da dove viene l'uva, no? Non è che la fanno da qualche parte, no, c'è una pianta che produce l'uva, la vite. E Gesù va ai suoi discepoli con questa immagine molto familiare a loro, molto comune, e dice, io sono la vite. Giusto? Giusto? No. Perché Gesù, perché non dice, esatto, perché Gesù non dice io sono la vite, punto. Cioè non dice, ragazzi, ci avete presente la vite? i suoi rami, i tralci, le foglie, e poi al momento giusto dell'anno il frutto e quant'altro, e come viene potato, come viene indirizzato. Ce l'avete presente? Ecco, io sono quello. No, Gesù non ha detto io sono la vite, io sono la vera vite. Che cosa significa questo? Che cosa significa? Quindi già qua ci stiamo fermando solo alle prime paroline. Che cosa significa il fatto che Gesù dice io sono, unendosi a tutti gli altri io sono di Gesù, io sono la via, la verità e la vita, io sono il buon pastore, io sono la porta, eccetera, eccetera, eccetera. Gesù dice io sono la vera vite. Quando ha detto questo ai suoi discepoli, giudei, devoti, almeno la maggior parte di loro, questa metafora, questa immagine non è suonata nuova, non è suonata non familiare. Subito loro si sono resi conto di quello che Gesù stava dicendo. Perché? Stesse dicendo perché? Perché nel Vecchio Testamento i giudei, il popolo di Dio, più volte è stato chiamato ed era descritto come la vite del Signore. Per fare un esempio, Salmo 80, il Signore chiama la sua vite, dice, la descrive, io ti ho chiamato, ti ho preso dall'Egitto, ti ho preso dall'Egitto e ti ho piantato nella terra promessa in Israele, ho fatto un muro intorno a te e ti ho stabilito come mia vite affinché tu portassi frutto. Ciò che però il popolo di Israele non ha mai fatto, o almeno non ha mai fatto completamente, perfettamente e in maniera giusta, come il Padre aveva chiamato la sua vite ad essere. È qui che Gesù va ai suoi discepoli e dice, ragazzi, io sono la vera vite. Io non sono come la vite che è stata e ha fallito miserabilmente. No, io sono la vite che è stabile, non è malaticcia, è sana e non cambia, è sempre la stessa. Io sono sempre la vera vite. In altre parole, io sono sempre la vera fonte di vita. Io sono l'unica vera fonte di vita, ha detto nel capitolo prima. Io sono la via, la verità e la vita, punto. Non c'è nessun altro. Non c'è nessun altro modo per accedere al Padre e alla vita eterna. Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, io sono la vera vite, non quella a metà, non quella che disubbidisce, non porta a compimento la promessa. Io sono la vera vite. E Gesù lo dice a me e a te questa mattina. Io sono la vera vite. Mettici il tuo nome. Io sono la tua vera vite, Gianluca. Io sono la vera fonte di vita. Io sono la vera fonte di amore. Io sono la vera fonte di gioia. Mia gioia in voi, affinché la vostra gioia sia completa. Io sono la vera fonte di amore. Io sono la vera vite, non guardare da nessun'altra parte, non cercare in nessun altro posto perché non si trova. Da qui a casa la vera vite è una, la vera fonte di vita è una e questa è Cristo Gesù. E questa mattina viene a te e dice, non guarda, dove stai guardando questa mattina? A cosa stai guardando questa mattina? Sei ancora alla ricerca? Io sono tutto quello di cui hai bisogno. Nelle tue situazioni, nelle tue circostanze, nelle tue sfide, nella tua ricerca, perché tutti siamo sempre alla ricerca. Possiamo smettere di cercare in Cristo Gesù perché Lui è la vera fonte. Fratelli e sorelle, il nemico ha questa verità. A questa verità che Gesù è l'unica fonte di vita, sussurrerà le sue vecchie menzogne. Vi ricordate nel giardino? Dio ha veramente detto, il nemico non cambia. Appena noi andiamo al Signore, proclamiamo, sì, tu sei la mia vera vite, tu sei l'unica fonte, tu sei tutto ciò di cui io ho bisogno, il nemico verrà e suggerirà, è proprio vero. Sì, certo, il Signore è importante, Gesù è essenziale, però ci vuole anche il lavoro, ci vuole anche il rilassamento, il divertimento, ci vuole anche la famiglia, ci vuole anche l'amore, giusto? Gesù dice, io sono la vera vite. Tutte queste altre cose magari saranno anche frutti, frutti buoni che il Signore ci dona in grazia, ma l'unica fonte di vita, l'unica fonte di vero amore non può essere un'altra persona, non può essere una moglie, un marito, un compagno, una compagna, prima di sposarsi ovviamente, non può essere nessun altro se non Cristo Gesù. E noi possiamo solo amare perfettamente un'altra persona se conosciamo il vero amore, se siamo uniti alla vera fonte di vita, alla vera fonte di amore, alla vera fonte di gioia, alla vera fonte di pace. Capite perché dico che è fondamentale, importantissima la nostra unione a Cristo Gesù? Non c'è vita al di fuori di Lui. Per questo, se non rimaniamo in Lui, se non rimaniamo uniti a Cristo Gesù e se non siamo profondamente consapevoli del fatto che siamo in Lui, ci secchiamo, moriamo. E sappiamo quello che cosa succede a ciò che è secco e a ciò che è morto. Gesù dice, Gesù ti dice, Gesù mi dice, io sono la vera vite. Lo sappiamo, vero? Lo sappiamo, vero? Continuiamo a proclamarlo la vita della nostra vita. Scusate il gioco di parole. Lui è l'unica fonte. Amen. E in maniera pratica, e qui perdonatemi se sarò un po' duretto, se vi passo un avvertimento e una correzione. Posso? Gianlu, che cosa possiamo fare da qui? Lo faccio con amore, lo faccio con tutto l'amore nel mio cuore, ma anche perché lo faccio prima e più di tutto a me. E questo è quello che mi chiedo, è mai possibile che quando siamo di fronte a una difficoltà, è mai possibile che quando sono di fronte a una sfida, la prima cosa che faccio è che invece di andare alla fonte di vita, invece di rifugiarmi ancora di più in Cristo Gesù, iniziamo a evitarlo. Iniziamo a non aver tempo, iniziamo a che non ci va. Sono l'unico? È mai possibile che appena abbiamo qualcosa nel nostro matrimonio che inizia a scricchiolare, cerchiamo di farci forte, no? Nei nostri diritti, e cerchiamo di, e piuttosto non andiamo a Gesù, l'unico che ci può insegnare ad amare. È mai possibile che davanti alle difficoltà una delle prime cose che viene a mancare è venire qui in chiesa? E dice, vabbè, ma la chiesa non è Cristo, assolutamente. Non c'è nessun sostituto a Cristo Gesù. Però Cristo Gesù ha istituito la sua chiesa per essere un suo mezzo. Noi riceviamo Cristo Gesù e lo viviamo in maniera più totale, più profonda attraverso la Chiesa. Questo è quello che Lui ha stabilito. Che non sia più così, fratelli e sorelle. Ci posso incoraggiare? Gianlu, lo dice a noi che siamo qua. Ehi, non ti è mai capitato. Il mio è un incoraggiamento. È un gioco sporco del nemico. È qualcosa che io capisco e capisco fin troppo bene, per questo ve lo dico col cuore. Forse sarò pure l'unico, però di fronte a una difficoltà, a una sfida, a un periodo di pesantezza, l'ultima cosa che voglio fare o che mi viene spontanea con tutta la gioia del cuore è spendere un po' più di tempo col Signore. Eppure quella è la soluzione. Eppure quella è la mia fonte, eppure quella è la mia vita. E quindi incoraggiamoci l'un l'altro, abbiamo letto noi così, incoraggiamoci l'un l'altro a continuare a farlo, a perseguire il Signore, perché Lui è l'unica fonte di vita. Gesù dice: io sono la vera vite. E queste sono solo le prime paroline del passo. La seconda cosa che vorrei evidenziare, però prima di far questo, sento proprio di far questo. Forse qualcuno di voi dice: sì, è vero Gianluca, anch'io come te non ho fatto come potevo. Di fronte a una difficoltà, di fronte a una stagione un po' strana, fatta di alti e bassi, di non lo so neanch'io come descriverla. Piuttosto che correre da lui, ho fatto un passo indietro, ho fatto un passo di lato. Ma non che non lo voglio bene o non lo ricerchi, però ecco, mi viene pesante. Se questo ti descrive, ti posso chiedere di alzarti in piedi come atto di arresa a lui. Chiudiamo tutti i nostri occhi, come atto di arresa a lui, ti chiedo di alzarti in piedi come impegno a dire: Signore, io voglio più di te e non voglio più evitarti. Aiutami, aiutami, aiutami a rimanere unito a te. Prendiamo questo impegno davanti al Signore, con tutto il nostro cuore, Signore, ci arrendiamo a te. Vogliamo essere ancora più uniti a te di fronte alle nostre difficoltà e situazioni, circostanze, e non di meno. Signore, tu conosci ognuno che si è alzato e lo ami di un amore immenso. Signore, grazie perché sei per loro, per ognuno di loro, il buon pastore, la vera vita. E adesso io prego, dai la tua vita in questo momento, la tua grazia. Padre, la tua forza di continuare con forza e tenacia a cercare te, ad andare a te prima e più di tutto. E Padre, se ci sarà fallimento, e nuovo fallimento, non permettere all'accusatore di scoraggiare. Fortifica tu, Signore, di gloria in gloria, e che la tua Chiesa possa essere ancora più unita a te, nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi potete accomodare. Perché Gesù è la vera vite, perché Lui è l'unica fonte di vita, Lui dice, logicamente, dimorate in me. Vi ricordate il tralcio, i rami? Il Signore sta dicendo, rimanete uniti a me, aggrappa, perché io sono quella fonte di vita, perché io sono la fonte dell'unico vero amore, gioia, pace, soddisfazione. Se cerchi quelle cose, rimani unito a me. È l'unica cosa che devi fare, l'unico impegno che devi mantenere. Continuate a dimorare in me. È il comando, è un comando ed è un comando di amore. Lo riuscite a vedere insieme a me? L'amore in questo comando. È un imperativo questo verbo. Quindi è un comando che il Signore dà diretto ai Suoi discepoli. Ma riuscite a vedere l'amore che c'è in questo comando? Gesù sta dicendo, io sono il tutto nell'universo. Tutto il resto è un vuoto, è un vapore che oggi c'è e domani non c'è più. Se cerchi il vero, è in me, per questo ti comando. Rimani unito a me. E questa parola dimorare, è una parola bellissima e ha molte sfaccettature, molti significati. Me li sono andati a studiare perché è così profondo questo termine, dove il Signore dice dimorate in me. Altre traduzioni per questo non dicono dimorate, ma dicono rimanete in me, perché è proprio ricco di significato questo verbo. Questo verbo significa appunto dimorare, dove si fa casa, dove si tiene dimora, dove ci si sente tranquilli e in pace, familiari, perché si è a casa. E Gesù sta dicendo, fate di me la vostra casa, dove vi sentite familiari, dove la frequentate spesso, così tanto che non vi metti a disagio. Questo è il dimorare, lo stare a casa. Un altro è quello di rimanere. E il rimanere nel senso di stare fermi, essere costanti. Quindi di continuare. Hai preso una strada, hai intrapreso una strada, non deviarla. Rimani convinta della tua decisione. Rimani e persevera in quella cosa. Ha a che fare proprio con un modo di essere costanti. non sballottati dalle onde del mare, da ogni vento, ma rimanere perseveranti in chi? In Cristo Gesù. E nella battaglia tenere forte, tenere duro. E quell'immagine della, almeno a me è piaciuto leggere questa settimana, è quell'immagine della corda attaccata alla vela durante la tempesta. Che fa la corda buona? Rimane attaccata, persevera, no? Continua nel bel mezzo della tempesta, a prescindere quanto forte è il vento. Questa è l'immagine di questo termine. Però, infine, può anche significare, questo è bellissimo, un'altra sfaccettatura di questo termine, è proprio indugiare, spendere del tempo, anche proprio sprecare del tempo, col Signore non è mai sprecato, quel aspettare, quel stare senza andare di fretta. È meraviglioso questo termine. E Gesù lo dice ai suoi: fate tutto questo con me, fate di me la vostra casa, continuate a perseverare in me a prescindere da quanto dura si fa, perché la vite attraversa gli inverni, anche gli inferni, però gli inverni, e sembra morta. Io ce l'ho a casa nel giardino e sembra morta. Eppure la linfa continua a scorrere e a mantenere viva. Per questo l'unica cosa che ci dobbiamo preoccupare non è da dove viene la linfa, come produrre la linfa. No, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è rimanere attaccati, rimanere ancora, continuare a perseverare, mantenere duro nel profondo più inverno che possiamo vivere. Continuare a perseverare, questo è l'invito, questo è il comando del Signore, perché Lui è la vera vita. E Gesù dice questa cosa meravigliosa: dimorate in me, comando, e io dimorerò in voi. Non è mai una cosa che noi facciamo da soli, perché fare le cose da soli, fare le cose per noi è impossibile, non ce la potremmo mai fare. E il Signore dice: voi metteteci del vostro e io faccio tutto il resto. Voi dimorate in me e io in voi. A dire il vero, letteralmente non dice dimorate in me e io dimorerò in voi, non dice se voi fate questo io poi vi prometto nel futuro che poi vengo a dimorare in voi. No, letteralmente dalla lingua originale c'è scritto dimorate in me e io in voi, e quel verbo ha un senso continuo. Non è un senso futuro soltanto, è anche futuro, quindi ci sta la traduzione, dimorerò. Però è anche presente. In altre parole, che cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo, voi dimorate in me, perché vedete, io già dimoro in voi, continuerò a dimorare in voi fino alla fine dell'età presente. Io già lo faccio, è un continuo, io lo farò e lo faccio già. Per questo dimorate in me, continuate a perseverare in me, continuate a indugiare in me. Fratelli e sorelle, amici, è la cosa più facile da fare. È la cosa più semplice e più facile da fare. Mio figlio è bravissimo a indugiare sotto la doccia l'acqua calda. È bravissimo, non ci vuole sforzo. Tu rimani là 3 ore e indugi. Amo mio figlio. Fantastico mio figlio, lo amo. Non ci vuole niente indugiare sotto la doccia della sua. E lui è quell'acqua viva. Io sono la vera vite. Io sono l'acqua viva. Voi indugiate sotto quell'acqua che lava, che purifica, che nutre, che ristora, che rinnova. Io sono la vera vite. Dimorate in me, indugiate con me, state con me, continuate con me. Questo è l'appello del Signore Gesù. Questo è l'appello del Signore Gesù. È la cosa più facile, eppure è la cosa più difficile. È vero? O sono l'unico? È la cosa più facile, eppure è la cosa più difficile. Perché appena decidiamo, Signore, ok, mi concentro su di te, pongo la mia mente a te, voglio riflettere su di te, voglio abbracciarti, lì iniziano le distrazioni, le chiamate, tutto. Tutto il mondo si scatena in quel momento. Sono l'unico? Qui ho bisogno di vedere le mani. Sono l'unico? Vedete quante mani? Questo ci parla del fatto che è una battaglia spirituale, fratelli e sorelle. Sì, certo, noi potremmo essere migliori, noi dobbiamo sforzarci di più, dobbiamo adoperarci di più, sicuramente. Ma appena noi decidiamo di farlo, c'è qualcuno che vuole evitarlo, perché sa che se ruba quello, ruba la vita stessa nostra, da figli di Dio, da rami. Una cosa lui deve fare in realtà, è rubarci quella. Se ci ruba quella, ci ha rubato tutto. Ci ha rubato il vero amore, la vera gioia, la vera pace, la vera soddisfazione, la vera vita. Per questo non ignoriamo questo fatto. Non ci scoraggiamo facilmente. Appena entriamo in quella sfera ci sarà battaglia. E io sono il primo, Signore. E mi scoraggio. Vabbè, ci ho provato, non faccio più. È scoraggiante, è frustrante, ma è l'arma del nemico. Voglio concludere, vedi che non sono arrivato al terzo punto, lo sapevo io, in maniera pratica. Voglio darvi proprio alcuni, sono quello che io sto praticando, e quindi ve lo passo, è la mia preghiera, e che possa aiutare tutti noi a continuare a migliorare nel rimanere uno con Cristo, a crescere in questo. La prima cosa è la cosa che non avete mai sentito, e io credo che questo vi aiuterà più di ogni altra, perché è un segreto mio, proprio mio, ed è prega. Prega. Lo so che è scontato, non è un segreto, ma prega. Prendi quel tempo, combatti per quel tempo. Combatti per... È parte del messaggio che Gesù ci ha dato in questi versi. Se uno dimora in me, chiedete tutto quello che volete e io ve lo do e vi sarà fatto. Preghiamo. E forse l'aspetto più pratico di questo è preghiamo. Se devi iniziare con una lista, con le classiche preghiere, fallo, il Signore le capisce. L'unica cosa che io ho notato è l'importanza di non rimanere lì. Altrimenti diventa una lista e quasi una cantilena, no? Quasi una, il Signore è questo, il Signore è questo, il Signore è questo, il Signore è questo. E il Signore dice, il Padre mio già sa di tutte queste cose. E quindi non dobbiamo più pregare per tutte le cose. No, Lui è buono, è pieno di grazia, le sta ad ascoltare. Però cerchiamo di muoverci da lì, ad aprire il nostro cuore in maniera più profonda, le nostre paure più profonde, i nostri sentimenti più intimi. Lui ci ascolta, Lui è un amico, Lui ha un orecchio pronto, Lui è quel buon pastore. Andiamo da Lui, apriamoci, preghiamo, preghiamo in questo modo. La seconda è leggiamo. Altra cosa scontatissima, però il Signore ci ha dato la parola sua. E io vi prego, leggiamo, continuiamo a leggere ogni capitolo della Bibbia, come il pastore e l'un l'altro ci stiamo incoraggiando a fare. Perché? Perché la Bibbia è il posto dove noi incontriamo prima e più di tutto una persona. E questa persona è Cristo Gesù. Lui ci ha dato la Bibbia per rivelarsi, per dire questo sono io. E lo so che a volte... non sembra. Io sto leggendo uno cronache, l'inizio, e sono tutte genealogie. E dico, Signore, dove sei? Eppure c'è anche lì la rivelazione di Cristo Gesù, del suo amore, che ha scelto nome e cognome da eternità passata, eternità futura, chi porterà avanti il suo piano. È lì, anche in quei libri, anche in quei capitoli, anche in quei versetti. Non leggere per mettere la crocetta. Fatto. Altrimenti è un rito religioso, altrimenti è un fioretto e non serve a niente. Ti fa morire. È meglio che non lo fai. Il mio invito piuttosto è fallo in Lui. io faccio così, pochi secondi prima di iniziare a leggere, dico: Signore, io so che tu sei qui da qualche parte, vuoi venire a farmi vedere dove sei? Posso incontrarti in questi versetti? Vieni, parlami di te, vieni. Ci vogliono 2 o 3 secondi e poi inizio a leggere. Con occhi, mente e cuore attento a dove è Gesù, a come posso incontrarlo. E Lui mi incontra, e Lui ci incontra. Leggiamo, leggiamo, leggiamo, leggiamo. E l'ultima cosa è: fissa i tuoi pensieri su di Lui. E questa è una cosa costante, questa è una cosa che non hai bisogno di ritagliarti del tempo. Nella tua giornata, io ho amici che mi hanno aiutato anche con queste cose, e ho un amico che prima di mandare una mail al lavoro, prima di mandare una mail, dice: Signore, grazie che sei con me, ti amo, so che mi ami. Ci vuole millesimi di secondo per rivolgere i nostri pensieri, il nostro cuore al Signore. Puoi essere nel bel mezzo del turno di lavoro, nella tua classe a scuola, nell'autobus o a cambiare un pannolino. Il Signore è lì con te e solo volgere il nostro sguardo a Lui. Questo ci aiuta a rimanere in Lui. Questo ci aiuta a rimanere, a dimorare in Lui, a perseverare con Lui. Se mandi un messaggio, prima di mandare un messaggio, quante centinaia di messaggi mandiamo, non dico al giorno ma alla settimana, tantissimi. Se prima di ogni messaggio innalzassimo una preghiera, un pensiero al Signore, quanto più ricca e unita a Lui sarebbe la nostra vita, la mia sarebbe certamente di più. Il Signore Gesù, attraverso questo passo meraviglioso, questo insegnamento meraviglioso, ci dice: io sono la vera vite. Non hai bisogno di andare da nessun'altra parte. Per tutte le tue situazioni, in quello che stai vivendo, per quello di cui hai bisogno, io sono la fonte di vera vita, di vera pace, di vera gioia, di vero amore, di vera soddisfazione, di vero tutto. Per questo vieni a me, rimani innestato in me. Ci alziamo in piedi. Stamattina abbiamo la Santa Cena e passerò la parola al pastore, ma non c'è modo migliore per proclamare la nostra unione a Cristo attraverso la Santa Cena. Per questo chiudiamo i nostri occhi e, come abbiamo fatto prima, forse dobbiamo rinnovare il nostro impegno a dire: Signore, voglio più di te, voglio più di te, voglio venire a te e non fare un passo di lato e ignorarti. Aiutami a perseverare in te, a rimanere in te, a dimorare in te. Forza, alza la tua preghiera adesso, il tuo cuore al Signore, tu con Lui, Lui è qui. Lui ti dice: io sono la vera vite, vai a Lui, abbraccialo, fallo tuo. Andiamo a Lui in preghiera.